era muto, si voltò Francesco che si svegliò cantando. Il giovane mancino era in punto di morte, di Francesco chiamò il nome e fu guarito. Il mendicante Bartolomeo all'ombra di un noce si era addormentato, quando si destò che più non camminava, per grazia di Francesco lui fu guarito. La povera Sibilla era cieca e triste, buon'uomo di Fano era lebbroso, la bella Umbertina soffriva il malcaduco, nel nome di Francesco furono guariti. E da Foligno il buon Nicolò, straziato dal dolore che più non sopportava, si votò a Francesco e con le sue gambe ed il cuor contento a casa fece il ritorno. Travolto da un muro, ma Francesco lo svegliò prima dell'alba. Maria di Gagliano, che aveva sete, trovò una fonte che era prodigiosa, una donna di Narni che era indemoniata, nel segno della croce fu liberata. Per le febbri ardeva Gualtiero d'Arezzo, a Francesco fece voto e fu guarito. Ed un figlio maschio ebbe Giuliana, malinconia si consumava in terra di Spagna. A San Facondo un grande ciliegio si era inaridito, la gente del paese lo affidò a Francesco e fiorito a primavera stupiva il mondo.